something good. Oh, something good. Oh, something good tonight. Make me forget about you. Wombat Wombat, ciao. Siamo compagni Wombat, ciao amici Wombat, come ciao fratelli, ciao Wombat, tutti. Ciao sorelle Wombat, e siamo qua in diretta in questo pomeriggio e interrompiamo il normale corso del palinsesto di Wombat, ci inseriamo così un po' a gamba tesa. E perché lo facciamo? Diciamo perché oggi ci sono due cortei molto importanti e si spera molto partecipati, uno a Firenze e uno a Roma. In realtà uno a Prato e uno a Roma. E uno a Roma. Beh, quello di Roma annunciatissimo, poi ne parliamo, avremo delle dirette, insomma. Ma abbiamo proprio una cosa freschissima, più immediata, subito, perché abbiamo subito il nostro amico inviato Bricco Baldo, che sì, ce l'abbiamo qua al telefono, e se tutto va bene i nostri potenti mezzi tecnici, potenti ma disordinati mezzi tecnici, vanno a funzionare, dovremmo sentire il nostro amico Lillo. Yeah. Caro Bricco Baldo, ci senti? Assolutamente no. Figuriamoci. Il nulla, ovviamente. Allora, intanto vi potrei dire che oggi appunto si doveva svolgere in realtà il corteo di Forza Nuova, che però la prefettura ha trasformato in un presidio. A deciderlo infatti è stato appunto la prefettura, che nella tarda serata di ieri ha comunicato il cambio di programma, e quindi la manifestazione, ci anche senti, se Lillo? anche se è autorizzata. Ci senti? No, non sentiamo lui. Lui ci sente e noi non sentiamo lui. Lui ci sente e noi non sentiamo è lui. È sempre così. Mm. E è quindi... tipo io non so scrivere, voi non sapete leggere, dico mia mamma la Trinità, no? Esatto. È come ogni storia d'amore che si rispetti, è sempre un innamorato e quell'altro. Allora, no. Eccolo, vabbè, lo mandiamo così un po' a merda per va adesso, bene. Poi dopo vediamo se ci tariamo. Bricovaldo? Brico? Oh, ci sei? Sì? Tutti, buonasera. Oh, bravo. E siamo a Prato. Siamo a Prato dove si sta svolgendo in Piazza delle Carceri un partecipato presidio. Alla fine è un presidio che non si muoverà da lì, ci sono molte persone, si possono quantificare 2-3 mila persone, forse anche qualcosa di più, capeggiano bandiere principalmente della CGIL, del Partito Democratico, l'AMPI, un po' tutti gli schieramenti politici della sinistra parlamentare e non, ci sono anche gruppi da Potere al Popolo, a Senso Comune e oltre che varie associazioni come Libera ed altri, si stanno susseguendo tutta una serie di interventi da parte dei rappresentanti di questi schieramenti. L'area è tranquilla, molto, non è nessun problema, c'è un imponente servizio d'ordine messo su dalla CGIL che diciamo vaglia le persone all'ingresso nella piazza ma anche fin dalla stazione. C'è un discreto spiegamento di forze nella città di Prato e con molte persone in borghese, molte persone con sguardi sì. E noi ora attualmente abbiamo lasciato la piazza delle Carceri per le Carceri in piazza del Mercato Nuovo dove vi è il presidio di Casa Pound. Ecco. Di Forza Nuova, scusate. Che inizialmente doveva essere un, dicevamo appunto che inizialmente doveva essere un corteo il loro? Sì, inizialmente doveva essere un corteo, però è stato modificato, non è un corteo, sarà un presidio che è rimasto là, sono state approntate delle misure per separare gli schieramenti, quindi il corteo di Forza Nuova doveva partire dalla stazione, da piazza della stazione esatto. Centrale e andare verso il piazza del Mercato Nuovo, esatto. Invece è stata appunto annullato il corteo, ma le persone chiaramente in quanto diciamo la stazione di Porta Serraglio è quella dedicata alla piazza delle Carceri, quella degli schieramenti di sinistra, quindi di fatto Porta Nuova scende alla stazione di Prato Centrale e si incammina verso il loro presidio, quindi non è un corteo ma bensì una spicciolata di persone che vanno verso il presidio. Quindi non ti rendi nemmeno conto dei numeri fondamentalmente in questa attualmente maniera? Attualmente è impossibile rendersi conto dei numeri, stiamo cercando di andare verso il presidio di Forza Nuova, siamo in prossimità della ferrovia. E non è molto semplice, ci sono diverse persone che stanno a controllare le strade, che monitorano forse l'ordine naturalmente, quindi vediamo se riusciamo ad arrivarci e poi magari a darvi anche notizie più precise. Perfetto. Pare che l'autorizzazione al corteo, a quello che doveva essere un corteo, che poi è diventato un presidio, sia arrivata direttamente dal ministro dell'interno. Ah, ecco. Questa è una notizia ufficiosa, naturalmente, quindi non abbiamo la certezza. Okay. A noi ci piacciono le notizie ufficiose, ci piacciono molto, anzi, sono quelle su cui facciamo più. Davanti a noi, proprio adesso, ci sono una ventina di poliziotti accanto alla stazione di Porta Serraglio, una ventina di poliziotti con i hatti non indosso, ma con i hatti in mano. Vabbè, in tenuta comunque. Quindi ecco tutta la chiamata alla sinistra, diciamo più o meno. Ecco, no, invece sta passando davanti a noi, stanno i 20 e con i Husky stanno ascoltando circa, direi diverse persone, sono direi diverse persone di Forza Nuova che ci stanno sfilando esattamente davanti agli occhi. Che bello. Circa un centinaio di persone che si stanno arrivando verso. Bene, non ti invidio e te li devi vedere, sinceramente. Una grande distesa di crape pelate. Certo, quello è così. Forse anche più di 100. Quello è lo stile. Ecco, nell'ordine di centinaio, insomma, però chiaramente... Sì, no, forse di più, perché ci stanno... Noi siamo dietro un angolo, li vediamo sbucare piano piano, però direi che probabilmente siamo già oltre 100 persone. Beh, però, insomma, la risposta invece alla chiamata è stata ampia, quanto dicevi. La risposta alla chiamata è ampia, sì, e anche molto varia, appunto, ci sono veramente tanti schieramenti e... Tante età, l'età media è un po' alta, però certo. Questo è quello che ho che... è quello che c'è sul piatto. Benissimo, io direi per ora... Ci si contenta per adesso. Grazie mille. Va bene, magari... Sempre molto professional. Vi richiameremo se riusciamo ad avvicinarci al presidio di Forza Nuova. Con cautela. Ecco, sì. Stanno aprendo ora le bandiere di questo... Siamo al più cavalcavia accanto alla stazione e stanno aprendo le bandiere che si portavano indietro arrotolate fino adesso. Probabilmente questo è un cordone che è arrivato dalla stazione di Prato, certo. si sta aggiungendo, certo. Sì, esatto. Sì, ora vediamo sventolare di fronte a noi le bandiere di Forza Nuova, una bandiera italiana. Bene, da brividi, perfetto. Bene. Non cantano slogan, non... Sento... Sì. Bene. Sì, esatto, la loro formazione. Ecco, sono partiti i cori, non so se potete sentirli. Sì, si sente. Si sentono. No, non si sente. Un po' sì. No, non bene, però si sente. Io mi accontentavo, non è che volevo insistere. Sono io pretenzioso. Ma lui voleva sentirli per bene, insomma, preciso. Ora te li ricanta. Sì, circa 150 persone. Però chiaramente questi sono quelli che avete visto voi, poi si andranno ad aggiungere, sì, immagino. Esatto. Anche se non credo poi i numeri saranno così alti, almeno lo immagino. Almeno spero. Lo spero, insomma. Va bene, allora ci riaggiorniamo tra un po'. Con bene, qualche news in più e grazie mille, a dopo. Bene. Grazie. A dopo a tutti e tutte. Ciao. Bricobaldo. E niente, avete sentito bandiere di Forza Nuova vicino ai nostri compagni che sono lì a tenere la piazza, insomma, a tenere alto, a tenere botta. E facciamo una cosa, ricordiamoci quanto fanno schifo sti fascisti e tutto. Con la canzone prossima vi mando per stemperare un po' gli animi. È una canzone uscita nel giorno di ieri, l'ha scritta un cantautore molto interessante, napoletano e romano acquisito, si chiama Giovanni Truppi. Non parla nello specifico dei fascisti, però parla di un argomento volendo a essi collegati, si intitola Borghesia. Si rimane lì. Borghesia, sono bastati un paio di secoli e già sei spazzata via. Tra le incudine e il martello, tra gli schiavi ed i padroni, tu dimostri che pensare solamente ai fatti propri. E da furbi solo per i coglioni. Borghesia, sei talmente spaventata dalla puzza di miseria che hai venduto pure i figli solo per metterti un guinzaglio. E ho capito che sei brava a tirare sul prezzo solamente al mercato del pesce. Per il Natale e la famiglia, per quattro mura, per avere sempre un po' di più. Un pochino di più, un pochino di più, un pochino di più, un pochino di più. Per gli stipendi ed i diplomi, soliti fatti, soliti nomi. Borghesia, anche se avevi la forza, se avevi l'energia. Alla fine hai perso tutto, dai giornali all'università, prima per giocare alla rivoluzione, poi per un po' di soldi facili e poi per la salute e la spiritualità. Per il Natale e la famiglia, per quattro mura, per avere sempre un po' di più, un pochino di più, un pochino di più, un pochino di più, un pochino di più. Per gli stipendi ed i diplomi, soliti fatti, soliti nomi. Per il Natale e la famiglia, per quattro mura, per avere sempre un po' di più, un pochino di più, un pochino di più, un pochino di più, un pochino di più. Hai chiuso gli occhi e ora la vita ti aspetta fuori e tremi sempre un po' di più, un pochino di più, un pochino di più, un pochino di più. Borghesia, sono bastati un paio di secoli ed ecco già che voli via. Abbiamo sentito Bricobaldo da... Abbiamo sentito Bricobaldo da Prato, che detta così sembra Bricobaldo da Prato. Nobile di Prato. Esatto, nobile per Bricobaldo da Prato. E che dire, cioè ci immaginavamo tutti come poteva andare a Prato, immagino, insomma, la chiamata era veramente così ampia, per super cui ampia. Super ampia, qualcuno dice troppo ampia. Super ampia. Però va bene. In generale, insomma, Arci, Ampi, tutta la sinistra democratica e non, insomma, più compagni vari, eventuali, sparsi, penso, insomma, quelli che non sono andati a Roma fondamentalmente, sì, sono andati a Prato. E queste situazioni sono sempre un po', non lo so, difficili, perché comunque sono blindate, blindatissime. Blindatissime, per cui non lo so, bisogna sempre un po' valutare, appunto, se il gioco vale la candela, nel senso, è chiaro che è bene presentarsi, avere una presenza, ci mancherebbe. Dall'altra però si rosica, è normale, stai lì, non puoi fare nulla. Quella è... Perché non ho capito se l'ha detto anche Bricobaldo, ma penso che ci sia stato un intervento, sì, un'aggiunta di forze dell'ordine all'ultimo minuto, sì, da parte del Ministero dell'Interno rispetto a quello che aveva già avevano previsto. Perché ieri, fino a ieri, loro dovevano fare il corteo, a quanto ho capito. Era così. Era così. E invece poi la prefettura ha stabilito che loro avrebbero fatto essere solo un presidio, probabilmente perché si sono resi conto di quanta gente sarebbe andata, sì, antagonista, diciamo. Esatto. E quindi hanno fatto un cambio, come spesso fanno, per tutelare la sicurezza dei cittadini. Dei cittadini pratesi e forse anche quella dei non lo so. Forza io, nuova, sicuramente. Sì, ecco, io sai, sono sempre. Ma anche sono stato quando ho visto il posto di blocco, ho fatto quello che fanno tutti. Ci sono comunque dei, io dei, dei lavori già, in corso. Sono subentrato a Grippo che ci sta manovrando tutti i lati tecnici con una certa maestria. Sì, con una certa maestria e confidenza, direi, e sicurezza nei modi. Sì. Oh. E diversi. Io sento tipo quattro sottofondi, sì, diversi. Esatto. Però va bene. Vabbè, bello, è una grande condizione di genere. tutto. E comunque sta succedendo il disagio. Dai, ci siamo. Sì, la Virginia c'è, ma non si sente. Sì. Sono dietro le tecniche cavi. Vabbè, scusate un po' il caos, ma ci sta. Ora c'è. Perfetto, hai toccato la cosa. Ai. Va bene, io mi fido. Vado avanti. Direi che questo di oggi non era. Non era l'unico corteo. Questo di oggi non è l'unico corteo della giornata. Anzi, sarebbe quello, diciamo, forse più, tra virgolette, il secondo in ordine di grandezza. Perché a Roma oggi c'è la marcia per il clima e contro le grandi opere inutili e imposte. Esatto. Ok. 23 marzo era annunciato ormai da tanto, no? Ne parliamo da veramente tanto. E ho seguito prima un pochino la diretta di Radio Onda Rossa, che sta seguendo passo passo la manifestazione, tra l'altro, quindi se ogni tanto ci scolleghiamo, se non ci piacciamo, l'alternativa a noi è Radio Onda Rossa sempre, e collegatevi lì e trovate il... Sì, chiaramente. Tra l'altro stanno facendo anche un piccolo podcast aggiornandolo, commettendo già gli interventi che sono stati fatti. Quindi, per esempio, ormai noi non possiamo sapere in diretta dell'inizio del corteo, ma sul sito di Radio Onda Rossa c'è già un piccolo podcast di un'intervista dei compagni. E sia... Bene, noi avremo dei collegamenti. Ora appena ci riesce. Sì. Ci colleghiamo, abbiamo dei wombat inviati a Roma. Wombat ovunque sono. Wombat nel mondo, e oggi a Roma diversi wombat sono usciti dalle tane e si sono spostati per andare a partecipare a questa giornata promossa, in realtà, appunto, leggevo, da una piattaforma formata da decine e decine di comitati e lotte territoriali sparse su tutto il territorio appunto italiano, che è il culmine di un percorso iniziato a Venezia mesi fa, passato per Venaus in Valsusa, per Roma, per Napoli e per altri luoghi dal nord al sud d'Italia, che chiaramente è, come tutti noi sappiamo, terreno di grandi opere inutili, tentativi di grandi opere inutili, perché poi in Italia in realtà non le finiscono, vedi, in realtà cominciano, ci fanno andare al manicomio e poi comunque non le fanno, ci arrestano, devastano anche tutto, perché bene, l'inizio certo. dei lavori spesso è la parte di demolizione, esatto. E quindi che dire, anche di soldi, ancora peggio, perché soldi buttati via, territori devastati, tutto, gente in galera, e poi comunque... E quindi poi si domanda perché poi la gente si incazza. Esatto. E il motivo è evidente. E quindi welcome to Italy, e direi, insomma, insomma, sappiamo che a Roma si sta radunando veramente, insomma, un grande numero di partecipanti. Ora ci faremo dire un po' meglio dai nostri wombat in diretta un po' quanti, come diceva appunto prima, sono persa, però come dicevamo prima, come dicevamo prima, c'è un aggiornamento continuo su Radio Onda Rossa, che chiaramente è lì. È Roma, per cui loro stanno sul pezzo. Quello che fai, niente, non è che ti puoi paragonare, però i numeri che leggo per ora danno addirittura 30.000, insomma, previsto l'arrivo di 180 pullman da tutta Italia. Cioè, che ancora era previsto. No, era previsto, sono arrivati, la gente già... Perché di solito negli ultimi tempi ci sono stati anche problemi ad arrivare alla manifestazione, possiamo chiedere un po' se ci sono stati. Io so che i nostri inviati Wombat sono arrivati e hanno già intrapreso, così sono già andati a quello che è il concentramento, almeno uno che è in Esedra, credo, in Piazza Esedra. E partiva da lì, almeno una parte, okay. Piazza, quella si chiama Piazza della Repubblica, insomma, scusate, io Piazza Tetra, perché sono vecchia. Però il corteo ufficialmente partiva alle 14, ma in realtà credo che prima dei tempi romani, quindi prima delle 16, ora che sono anche tempi dei Wombat, evidentemente. No, vabbè, dei Wombat ovviamente sono ovviamente sul fuso orario australiano, quindi adesso non è che possiamo pretendere. Secondo me potremmo fare una cosa, prima di collegarci con Roma, abbiamo sempre il nostro Briccobaldo che scava come un pazzo. Dice delle news. Sì. E queste news ce le potrebbe raccontare. Adesso noi lo chiamiamo. Ah, delle news da pranzo. Eccoci qua, voi intrattenete nel frattempo, io faccio tutti i miei frulli tecnici. Non ho capito, perché prima eravate voi con le cuffie, io provavo altre cose. Volevo chiedervi, ma diceva Lillo che davanti al presidio stava sfilando Forza Nuova. Sì. Quindi li hanno fatti muovere dal presidio. Appunto, in realtà non ci sta per dire questo, Lillo. In realtà non è che li hanno proprio fatti muovere, li hanno scortati. Allora, da dove aspetta arrivavano. Aspetta un attimo. Qui. Sì, perché appunto il Lillo. Di far contatto, ci senti? Di fare entrare in contatto. Ci senti? Dai, ma porca troia. No. Dovete sapere. Parla. Grande. Vai. Pronto? Vai Lillo, vai. Bene, stiamo continuando a seguire il corteo di Forza Nuova, perché è diventato un corteo. Ok. Mentre stavamo parlando con voi prima, si apprestavano a passare sotto la ferrovia di Porta, nei pressi della stazione di Porta al Serraglio, hanno tirato fuori le bandiere, hanno iniziato con i cori e quindi per te è diventato un vero e proprio corteo. Ecco. Per arrivare fino a scortato, naturalmente scortato da forze dell'ordine, da polizia antisommossa davanti, un furgone dietro, e abbiamo un sacco di visite in borghese che ci fanno le foto tutto intorno, la piazza è transennata e quindi sì, di fatto è stato un corteo, seppur ridotto, seppur solo nell'ultimo tratto, però è stato permesso un corteo. Quindi un'altra bella occasione per andare a farsi fotografare dalla Digos anche oggi, non ci facciamo mai mancare niente. È veramente pieno di in borghese, a piedi, in moto, in bicicletta, e li abbiamo trovati lungo il corteo in vari punti a fare le fotografie con i caschi, insomma, naturalmente civili, però con i caschi in testa. Sì, e certo. Adesso si stanno concentrando nella piazza del Mercato Nuovo, che è tutta transennata, è pressoché inaccessibile a chi non è radato e non ha un tricolore legato sul braccio. Ve lo potevate procurare, effettivamente. Quindi sì, potevamo procurarcelo. C'era un po' l'infiltrati, no? Cioè, alla fine nel dolore uno, se proprio deve andare lì, siamo ancora in tempo a sgozzare qualcuno. Esatto. Qualcuno è rasato, ci sarà anche, voglio dire, no? Insomma, anche... Esatto, sì, niente, questa è un'altra triste scena alla quale assistiamo in... Ma oggi è così. Che è comune negli ultimi tempi, sì. Bei tempi, bene, quindi grazie di questo aggiornamento. Per ora quindi siete così, comunque voi vi potete spostare o vi chiudono... No, noi ci possiamo spostare con discrezione, ma ci riusciamo a spostare. Ok, va bene. Con molta attenzione, perché si vede che hanno gli occhi bene aperti e non lasciano niente al caso, però sì, abbiamo avuto la possibilità di spostarci. Per ora la situazione non è tesa, insomma. Non è tesa e non sembra neanche in procinto di diventarlo, ecco. Poi naturalmente non si può dire, ora ancora non siamo riusciti a affacciarci realmente in piazza, a capire quante persone ci sono. E niente, la piazza di là, la piazza rossa, è informata di quanto sta succedendo, e ora purtroppo noi non sappiamo quali sono le intenzioni, ma immagino comunque tranquille di non muovere il presidio. Sì, anche perché poi almeno muoversi, appunto, se è tutto blindato è difficile, appunto, uno sta un po' quello, esatto, che gli fanno fare. Bene, benissimo. Benone, ti ringraziamo. Grazie, e ci riaggiorniamo più tardi. Bene. Ancora no. Per ora no, adesso proviamo un collegamento a sentire un po' che punto stanno lì. Benissimo. Allora, a più

doveva essere soltanto un presidio, invece a quanto pare si sta trasformando in un corteo, quello di Forza Nuova a Prato, e quindi niente, non bellissime situazioni, stiamo, no. Siamo in sostegno dei nostri compagni che stanno lì a guardare tutte quelle teste pelate che sfilano. Sì, che schifo comunque alla fine, sì, se ci pensi. Abbastanza schifo. Nel frattempo siamo in contatto con i compagni di Roma. E tra un pochino avremo la telefonata. Sembra di sì. Con loro. Non fare promesse. Sì, sì, poi magari vediamo un po' in corsa. E niente, cosa c'è da dire? Parliamo un po' del non lo so, chiacchieriamone un po' di questa manifestazione a Prato, un po' della situazione, sì. No? Perché cioè, è così importante il fatto che... Beh, è stato... Allora, la manifestazione, quella di Forza Nuova, è per il centenario della Fondazione Fasci Combattimento, certo. 1919. Cosa che è particolare, che un centenario di un evento così nefasto per l'Italia sia festeggiato in piazza con una manifestazione, tra l'altro una manifestazione nazionale a cui penso che partecipino anche i vertici della baracca fascista. E è abbastanza particolare che una cosa del genere nell'Italia antifascista e che si ammanta di essere appunto vigile sulla rinascita del fascismo poi sia stato permesso. È stato un po' un fulmine a ciel sereno la decisione di autorizzare il corteo, che poi si doveva trasformare in un presidio, poi sembra sia un mezzo corteo, insomma vabbè. Ovviamente non è legato, cioè la protesta di oggi è legata proprio al faccenda di festeggiare questo centenario, però la legittimità di questi personaggi sicuramente non arriva dall'autorizzazione della questura di Prato di far partire questo corteo, ma la legittimità gli è stata data a questi soggetti nel corso dei decenni, negli ultimi decenni, dalla cosiddetta democrazia, tra virgolette, nel, certo, senso, nel trito discorso in cui la democrazia è quella in cui tutti possono parlare, possono dire la propria, sono stati sdoganati i fascisti, sono stati sdoganati dai giornali, sono stati sdoganati dalle televisioni, dalla politica, tanto che adesso ce li ritroviamo al governo di un paese, e non quelli di Forza Nuova, ma i loro amici verdi. Sì, sì, sì. Quindi diciamo che questa è un'occasione di protestare contro un presidio di una forza fascista, dichiaratamente fascista, anzi oltranzista, proprio forse una di quelle più estreme, e viene protestato contro contro questa autorizzazione. In una città come Prato, che oltre ad aver vissuto l'antifascismo e la resistenza in prima persona, è anche oggi una città piena di contraddizioni, in cui l'immigrazione è stata ed è molto, molto forte, molto preponderante, e è una città in grande trasformazione e in grande espansione, quindi non è, certo, nemmeno un caso che i fasci vogliano andare da quelle parti a gonfiare il petto. E non è nemmeno un caso che i compagni invece dall'altra parte ci tengono a far sentire il sostegno, invece per far passare un altro tipo di concetti all'interno di Prato, ecco. Sì, sì. Sappiamo tutti Prato che cos'è, no? Stiamo comunque parlando della seconda città della Toscana. Ecco, abbiamo nel frattempo, forse è Briccobaldo. Beh, ci fa piacere sentirlo, gli rispondiamo. Sì, dai, oppure rispondiamo. Gli attacchiamo nei visi. No, rispondiamo. Gli va. Bricco. Ciao caro. Ciao. Sei in diretta, raccontaci un po' sulle novità. Allora, novità non ci sono grosse novità, nel senso che appunto il corteo si è concentrato nella piazza, però la novità che possiamo darvi è il numero esatto dei partecipanti al presidio di Forza Nuova, e sono 137 E quindi le contati? 137 persone, sì, non le abbiamo contati noi, ma li hanno contati, sono stati contati dai giornalisti. Vabbè, puoi contarli anche te comunque se vuoi, perché... No, non si possono contare perché è completamente vietato l'accesso a tutta l'area circostante. Bene. È stato bloccato completamente tutto. Okay. Non c'è la possibilità di accedervi né se non hai appunto un cranio rasato e una fascia oppure un passo da giornalista, non ci puoi entrare neanche se sei un cittadino. Okay. Veramente una cosa a detta dei pretesi mai vista in no, città, certo. Perché veramente hanno riservato una parte della città per questa manifestazione. Quindi da una parte della ferrovia c'è un'area completamente bloccata dalle forze dell'ordine, vietata all'ingresso della qualunque, mentre dall'altra parte c'è un servizio d'ordine fatto dai militanti. Ecco, okay. Questa differenza salta subito all'occhio. E tutto questo casino per 137 persone, tra l'altro, a questo punto. Tutto questo casino per 137 persone, la piazza di là è informata, pare che stiano anche arrivando un po' di persone, okay, di qua, e quindi attualmente la situazione è molto tranquilla e vediamo se nel caso vi siano... Se cambia qualcosa, ovviamente chiamaci. Dei movimenti, vi chiamiamo subito. Io avrei una domanda, Bricobaldo, già che sei lì, no? Spesso quando ci sono questo tipo di manifestazioni, e parlo personalmente, no? Quando ci sono manifestazioni dei fasci o cose del genere, tutte le volte mi domando, e nel senso non è che con questo voglio screditare la lotta o niente, mi domando sempre quanto senso abbia andare in piazza a ribadire che è importante, insomma, esserci, a fargli quanto è importante andare in piazza in questi casi, o quanto potrebbe essere efficace ignorarli. Ora, so già di per sé che è utile ed è importante andare in piazza, però ci sapresti dire un perché oggi, un provvisorio e un momentaneo perché oggi secondo te è importante a Prato esserci? È importante a Prato perché essere a Prato oggi, perché questo è un po' l'ennesimo passo in avanti, l'ennesimo morto a un mondo che sta scomparendo, e a un mondo che sta scomparendo a favore di un mondo che sta tornando, e nonostante le continui allarmi dati da quelli che sono sempre stati bollati come estremisti di un ritorno di un'ideologia che anche poco tempo fa sembrava lontano, perché ancora un paio d'anni fa era sempre un tabù inneggiare o fare apologia di fascismo, mentre oggi per l'ennesima volta negli ultimi tempi e sempre con maggior forza invece si afferma il fatto che è possibile fare apologia, è tollerata, e secondo me questo evento va visto nell'ottica di una progressione, di un percorso che stanno portando avanti con attenzione, con oculatezza, e che non è finita qua. Buona la risposta, bravo. Ottimissima risposta. È tutto per adesso, ci sentiamo dopo, ti va bene? Bene, ci sì, sta bene? Certo. Dai, ciao, chiamaci, certo. Facci sapere e noi torniamo in regia. Bene, ciao Bricobaldo. Ciao. Buono, abbiamo risentito Bricobaldo, che ci aggiorna via via su cosa sta succedendo, ci ha dato dei numeri, si è detto 137. 7, insomma. 137 è forse il record. A sì, record, forza, no, record. Record, record. Oh, quando... No, vabbè, incredibile, tutto ciò è incredibile. E... Una città come Prato venga militarizzata in questo modo e venga bloccato l'accesso nelle piazze perché 137 malati di mente decidono che è giunto il momento di festeggiare 100 anni dalla loro fondazione. Io penso sempre, non lo so, un po' come diceva prima lui, che questi momenti servano, chiaramente sono un po' così polemica come sempre, penso anche che chi li chiama, no? Chi chiama la risposta come oggi, perché comunque la risposta veramente è arrivata da un ampissimo ventaglio, sì, no? delle sinistre, come abbiamo già detto, e non è per fare polemica inutile, però mi sembra che appunto tante di queste parti... Il nostro Bricobaldo è attivissimo, ragazzi, si fa in tempo a iniziare a chiacchierare. Forse è successo qualcosa, anche perché sennò poi lo mandiamo a fanculo, perché... Bricobaldo, fa che sia successo qualcosa, sennò ti mandiamo a fanculo, abbiamo appena detto. Stanno, vai, dici. Si stanno muovendo. Ok. Stanno muovendo, sono... Chi intanto? Sono usciti dalla piazza. Sì. tre camionette che con i rampeggianti, sì. E a quanto pare si sta rimuovendo l'assembramento. Ho sentito degli sbirri parlare, sembra che li stiano per riaccompagnare alla stazione. Finisce la loro giornata, lunghissima giornata, quindi. Lunghissima e gloriosa giornata. Un giorno da leoni per loro. Ma così? Potrebbe essere il nostro sul viale del Tremonto, però non lo so, ci sono diverse persone qui intorno molto dubbiose di quanto sta accadendo, quindi comunque vi richiameremo nel caso di succeda qualcosa. Bravo, chiamaci ogni circa 30-40 secondi, almeno ci aggiorni alla perfezione. Flash mob di Forza Nuova praticamente ci dici. Vai, ok, ciao, ci riaggiorniamo carissimo, grazie mille. Ciao. Rapidissimo aggiornamento e fugace. Non mi ricordo più, mi hanno interrotto la polemica, tra l'altro. Ti ha interrotto la polemica, una polemica tutto sommato abbastanza sensata. La polemica era, va benissimo che appunto chiamino, però ci sono delle parti oggi della parte della sinistra che hanno chiamato questa giornata, quindi per contrapporsi, sì. Che in realtà con il loro operato, con la loro politica, invece anzi sono stati sempre più che con i venti, con questo ritorno, e l'hanno permesso. Ora non voglio banalizzare, non voglio, però come dire, ci sarebbe da parlare. No, tra l'altro. Però voglio dire, a me pare un po' inutile che Nardella dica scendo in piazza contro i fasci. Poi sembra non ci sia Nardella. Vabbè, l'ho detto, dai. No, ma certo. E mi sono subito ringalluzzito. Lo so, è il tuo amico. ma ora Nardella come altri, non voglio. Però sì. In generale credo che sia un po' un'ipocrisia. Tutta tipica un po', no? del nostro sistema, di fare la celebrazione, no? di contrapporsi nei momenti in cui è facile, nei momenti in cui è palese. Comodo, anche politicamente è molto comodo. Comodo, appunto. Sono elezioni, ricordiamoci. Esatto. E così deve sembrare di sinistra. E invece poi non si fa altro che, attraverso la repressione di chi davvero porta avanti delle lotte, ma insomma pensiamo a tutti i compagni in questo momento. Ora non voglio fare sempre la retorica, ma sono nei guai proprio perché praticano l'antifascisti, sono in galera, in guai, quelli che non sono in galera sono in guai molto seri in tutta Italia, Torino, a Firenze ancora si è appena conclusa l'inchiesta contro gli anarchici, deve essere il processo contro appunto il maxi processo, certo. Si deve concludere a maggio, e quindi ecco, direi che mi sembra un po' doveroso ricordare tutti quei compagni che sono davvero nei guai, perché l'antifascismo lo fanno davvero, certo. L'antifascismo e così come l'anticapitalismo, l'antisessismo, eccetera, cioè combattono tutte quelle, sì, opponendosi mostri. Anche fisicamente all'apertura, per esempio, delle sedi di Casa Pound, come mi ricordo Piacenza, per cui i compagni sono alcuni sono ancora insomma con misure cautelari grosse. Questa politica che va in piazza oggi a Prato a me fa veramente ridere, perché è proprio la stessa politica che invece punisce gli antifascisti, certo. E li reprime fortemente e li mette in condizione, creando anche nuove leggi che appunto che ci sono già, sfruttando appunto 41 bis e tutte le leggi speciali che sono state fatte in realtà per altro e poi applicate fondamentalmente sulle compagnie. Penso che questo sia un caso particolare, nel senso che Forza Nuova, tra le varie organizzazioni politiche, è quella che il centro-sinistra o il centro o comunque anche per esempio i giornali, i grandi giornali, la grande emittente televisive non sopportano. Cioè Forza Nuova ha attaccato direttamente giornalisti, per esempio giornalisti di Repubblica, ha attaccato giornalisti dell'Espresso, ha scritto ha inneggiato al fascismo e al ritorno al fascismo, e anche con delle svastiche i muri del comune di Prato e della sede dell'Ampi. Loro sono particolarmente appunto, no? Pittoreschi, probabilmente sono pittoreschi. No? Quindi è un po' più facile opporsi. Non scordiamoci, non è forse Forza Nuova, purché certo. Anche essendo la forse una delle poche organizzazioni veramente inaccettabili che ci sono in Italia, ma non è l'unica. No, assolutamente. E chi è meno esplicito di Forza Nuova ma pratica le stesse cose non è combattuto come Forza Nuova. Anzi, è agevolato, per non dire. Ecco, quindi, basta pensare a tutti i casi, per esempio, tra Forza Nuova, Casa Pound e La 7. Esatto. Come La 7 si è aperta, l'emittente televisiva si è aperta a Casa Pound, andando addirittura nell'occupazione di Casa Pound a mandare i propri giornalisti, anche migliori tra l'altro, o comunque quelli di punta, mentre con Forza Nuova ha rifiutato i confronti. Quindi insomma, diciamo che questo è un caso particolare che verrà anche un po' strumentalizzato. Sicuramente. E noi non è un caso qui ci ricordiamo che... Sì, beh, questo nulla toglie a quello che si diceva prima. Cioè, che va bene, nel senso, è chiaro che i compagni si mobilitano, è chiaro che... Però poi la libertà d'azione che si ha in questi momenti è pochissima, come ci ha appena detto lui. Perché sei talmente blindato che se non ti portano via loro, ti fanno portare via quegli altri. Quindi rimane un presidio, rimane far vedere che tante persone comunque non vogliono quella sfilata, non vogliono la propria città. Sì, forse più serve importante anche... per gli abitanti, magari più che appunto, per il mondo della politica e poi dei compagni che si vive l'antifascismo magari più quotidianamente in altre forme. Certo, ed è importante anche per dare una narrazione reale, insomma, quello riassumo un po' quello che avete detto voi in apertura a questo, diciamo, dibattito, cioè è importante affermare i reali valori dell'antifascismo, i reali discorsi e non far sì che quelli che occasionalmente saltano sul carro dell'antifascismo si prendano tutta la piazza con le loro striscioni PD, CGL o chi cazzo sono, però insomma il fatto sta che c'è un po' anche questo aspetto. Poi qua, semplicemente insomma, ci sono altri 364 5 giorni in un anno in cui in cui loro se ne scordano sempre e noi ce lo ricordiamo sempre invece. E noi ce lo ricordiamo perché lo paghiamo anche, quindi ci si ricorda per forza. E ora non voglio appunto fare sempre la lista però è un po' così della spesa, però è un po' così. Nonostante questo, forse ci ricollegare. Chi ha detto? Puoi dirlo al mio. Manda una canzone certo, poi vediamo se ci riesce a fare un collegamento con Roma invece. Sembra che se no. E facciamo una canzone di Bruno Risasso, una canzone proprio contro i fascisti, perché è una canzone contro la paura. È veramente l'unico sentimento che riescono ancora a cavalcare, mi sembra. Cioè. Ma lasciamo finire la scorsa, dai. Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me. Le mie canzoni poco intelligenti che ti ci svegli la mattina e ti ci lavi i denti. Canzoni per chi non ha voglia di pensare o di ascoltare, canzoni per dimenticare. Sono canzoni poco consistenti, insomma canzoni come me, che non faccio più ragionamenti, che voglio solo sensazioni, solo sentimenti e una tazzina di caffè. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare, solamente una tristezza che è difficile toccare. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è. senza tanti complimenti. Canzoni come sberle in faccia per costringerti a pensare. Canzoni belle da restarci male. Hai le canzoni da cantare a squarciagola, come se 5.000 voci diventassero una sola. Canzoni che ti amo ancora, anche se triste, anche se dura. Canzoni contro la paura. Rieccoci, ciao, abbiamo il nostro Bricobaldo attivissimo. Vai. Ora ve lo passiamo immediatamente. Eccolo là, Lille, dici. Allora, sì, pronto, siamo qua. Si è ripartito il corteo dei fascisti che si sta incamminando verso, di nuovo verso la stazione. Sempre scortati, ci sono stati dei piccoli contatti. Ci sono stati dei contatti fra questo corteo di 137 merde. Bello. 137 merde. 137 merde. Dai, dimmi Lillo. Mi stanno sfilando tutti, sì, davanti a me. Mandali a fanculo anche da Radio Wombat, per favore. Sì, molto volentieri. Stanno tutti infamando me. Stanno tutti guardando me e infamando me. Passaci. No, bravo. Digni pupa. Ti mostro il tuo. Bravo. Vai Lillone. Sentiti libero. Ma il contatto, scusami, con chi c'è stato? Con la polizia anche? Sì, c'è la polizia, la guardia di finanza. Polizia e guardia di finanza che... Sì. Aspetta, vi lascio perché sono stato appena fermato dalla polizia. Benissimo. Ciao Bracco. Ci si sente dopo? Richiamaci, faccio sapere. Ciao. Sì. Cambiato tono. Bene. Chiudi il telefono. Ecco, ste merde, si sta a parlare di merde. Vabbè, allora, merda con oggi la merda. Così. Ora ci riaggiorniamo dopo con Bricobaldo. Sì, esatto. Stavano chiamando da Roma. Mentre si chiamava Bricobaldo. Ok, ora Bricobaldo lo lasciamo in sospeso. Lasciamo un secondo. Andiamo a prendere in questura dopo. Ora si va a Roma chi chiamo? Chiama lì, sì, esatto. Buono. Terza? Ok. Sì. No, secondo. Sì. Noi adesso chiamiamo a Roma, sentiamo un po', a questo punto sono le 17, se quell'orologio dice il vero, sono 17.03 e vediamo un po' a che punto sono da Sì, beh, ormai si dovrebbero essere incamminati, si sa che Corte e Roma sono infiniti e che... Sta squilla comunque. Noi proviamo. Occhio. Sta squillando. Ci saremo. Ce la siamo persa prima. Nulla, ci hanno riattaccato. Speriamo che i compagni a Roma non ci abbiano problemi pure loro. No, sono tranquilli. È il clima, oggi, di buono, tutti quanti Roma. D'accordo. No, cioè, d'altronde, insomma, si sa, il clima, ragazzi. Cioè, sti ghiacci si sciolgono, se ne sono ricordati tutti ora. Vi ha visto? Hai visto? Tutti insieme. No, più che altro mi fa morire anche lì, appunto. Vabbè, non so, la polemica. No, io ho sempre polemizzato. No, su lei invece... Iniziamo un'altra polemica? Sì, dai. Con me è così. Sta diventando quasi in soldoni del primo fuoco alle polvere. Soltanto i super appassionati si possono ricordare. Sì, non ho capito perché non siamo al telefono a nessuno a questo punto. Perché non ci stanno rispondendo, ci stanno cacando. Quindi ora si riprova. Direttamente. Proviamo il direttissimo. Sì. Direct. Ci siamo persi l'attimo perché ci stavano chiamando e noi... Ma c'era un po' di bagarre a Prato. C'era Bricobaldo on fire, quindi noi quando Bricobaldo è on fire lo sapete, cioè che si può fare? Si butta acqua. Non lo puoi fermare. Lo mandiamo a 6.000. Mi ha richiamato il numero. Quindi richiamiamo un'altra volta questo numero. Vediamo un po' se ci risponde l'estate. Centralino. Va bene. Io intanto. Nulla. Facciamo che questo numero niente si ritorna a quello vecchio. Ci aveva chiamato. Comunque, in tutto ciò, mentre noi cerchiamo di chiamare le. Insomma, alla fine vedi a Prato la situazione si è scaldata. Perché dai tenerli lì. Ha visto che serviva i compagni, qualche altro accidente a me. Vabbè, è così. Tanto per quando uno le cose divertenti uno se lo perde sempre. Ci riattaccano. Non ci vogliono in realtà. Si prova qualcun altro ancora? Sì, vai, prova qualcun altro. Aspetta, ancora. Mi è venuto in mente ora. Eccolo. Eccoci qua. nelle persone. Pronto? Eccolo, questa vociaccia. Ti sei informato, sei in diretta. Come va? Come andiamo a Roma? Non ci sente. Ci senti? Sì? Ci senti? Pronto? Ci senti? Certo che lui non ci sente. Vabbè, però questa è la linea. Sì, ma mi sa che c'è un po' di gente, quindi può darsi ci siano anche problemi. No, sicuro, perché poi quando c'è così tanta gente, come si dice, interrompono un po' le cioè non, sì, la appunto. Linea non si sente. Non funziona un cazzo, dai, diciamo. Non funziona un cazzo. Mai, e io volevo né a Roma né a Firenze né a... No, a Prato sì, sembra funzionare tutto abbastanza bene. Prato, ragazzi, cioè, Prato mi sembra che linea diretta. Infatti Prato è mi sembra che okay. Oggi noi volevamo ovviamente un altro inviato, non volevamo Ricco Baldo, noi volevamo Grande del Lago, ma Grande del Lago non poteva essere presente, purtroppo. Siamo molto dispiaciuti di questo. Sì. Perché a lavorare. Capito? Cioè, sì. Lavora. Lui di lavora. Sabato, sì. Di sabato. Di sì. Sabato. Vedi che alla fine. Ci riproviamo? Proviamo un'altra. No, non proviamo con nessuno. Continuiamo a chiacchierare così un po' del niente. Va bene, io volevo dire vai. Che. Che cosa? Volevo dire che in realtà queste due settimane sono intense, perché ci sarà un'altra importante corteo, sì. Giusto? Sabato. Ah! No. No, ma niente, ci sarà un altro importante corteo, beh, ormai annunciato già da un po', sì. Sabato prossimo a Torino, giusto? Mm-hmm. Non so se non sbaglio. E poi, non vorrei dire lo stesso giorno, a Verona. Quanta roba c'è? Ah sì, questo prossimo weekend è intenso. Sì, ma infatti tra l'altro a Verona cosa c'è? A Verona c'è diciamo la risposta. C'è quel troiaio? C'è... La conferenza, praticamente, ecco, la diciamo, famiglia, quella, sì, quella sulla famiglia, lì, esatto, e quindi bello. Tutti i compagni, le compagne, insomma, ecco, le realtà più, appunto, più vicine, magari a, che so, non una di meno, piuttosto che tutti i collettivi queer, LGBT, sì. Insomma, in generale, si mobiliteranno, e quindi diciamo che le forze alla fine della prossima settimana si divideranno un po', perché, sì, chi andrà a Torino a sostenere, appunto, come dicevamo prima, i compagni ingiustamente accusati di insomma, che subiscono processi per terrorismo, sì. Mi pare che il 30 sia proprio per questo collegato. Poi vabbè, c'è stato lo sgombero chiaramente dell'asilo occupato poco meno di un mese fa, quindi insomma il clima a Torino è caldo. Tra l'altro sì, poi non so se le sentiremo in settimana, a proposito del clima a Torino caldo, che la critical mass di Torino di qualche giorno fa è stata brutalmente caricata dalla polizia. E l'8 marzo anche. E l'8 marzo. Le ragazze e chi partecipava al corteo femminista dell'8 marzo, addirittura cose che non succede quasi mai, perché insomma è una data abbastanza standard. In realtà ha avuto contatti di nuovo, cioè Torino è sempre un po' una piazza calda negli ultimi mesi, è un po' la caccia all'uomo, sembra. È un po' la caccia all'uomo, perché ci sono stati appunto lo sgombero dell'asilo, il problema che comunque si occupava anche molto di migranti, quindi c'è tutto un aspetto. Più c'è questo processo ai quattro ragazzi accusati di terrorismo, perché sono andati a sostenere le lotte dei compagni insomma in Siria, eccetera. Esatto. E purtroppo appunto leggevo l'altro giorno che per esempio anche Zero Calcare è un testimone a questo processo, e ha rilasciato un'intervista piuttosto interessante in cui dice la morte del compagno Lorenzo, che ricordiamo è venuta, insomma, la notizia è arrivata lunedì di questa settimana, in questo lunedì nero, se fosse tornato vivo comunque sarebbe accusato di terrorismo. Esatto. Quindi qui si fa il processo. Sì, certo. Bravissimo anche suo padre, io lo ammiro tantissimo, che in un momento di tristezza come quello che può essere, io non me lo riesco manco a immaginare la perdita di un figlio, cosa può essere, penso nessuno se lo riesca a immaginare, nessuno voglia mai arrivare a farci i conti, però ha avuto la lucidità di rilanciare immediatamente per gli altri, ecco, e questo secondo me anche Alessandro, insomma il padre di Lorenzo, ecco, ci ha lanciato un messaggio importante e fin dall'inizio ha rilanciato sulle lotte che adesso su cui adesso si potrebbe fare qualcosa. Sì, esatto. tra l'altro, sì, volevo solo fare un appunto su questa cosa che ci sarà invece sempre il 30 a Verona. Io beh, sono abbastanza, ovviamente, cioè, insomma, ci tengo a fare anche un po' una chiamata a chi non va a Torino e può andare a Verona, perché Verona in realtà passa un po' in secondo piano rispetto a Torino, ma invece molte forze antisessiste si stanno muovendo per quella data. E si spera che non penso sia ci sia un po' il peggio dell'Europa intera, ma forse anche del mondo. Un congresso delle famiglie, quindi ci sarà proprio una manifestazione proprio pro insomma, famiglia tradizionale, poi sì, che poi raduna, molto velocemente si trasforma in una manifestazione contro l'aborto, contro tutto. Insomma, tutti i diritti e tutte le pratiche sì. che uno tenta di rivendicarsi. Sì. Io poi appunto non sono nemmeno un amante di rivendicarsi il diritto in sé, in quanto non lo so, credo sia difficile ottenere dallo Stato, da uno Stato come quello italiano. No? È solta, cioè credo che sia, come dire, deleterio fermarsi alla sola richiesta di diritti. Sì, però tornare indietro da quella è un vaffanculo. Assolutamente no. Però esatto. Avanti. No, è certo. Di un diritto che magari appunto ci definisce fino a un certo punto, ma ci aiuta fino a un certo punto, per quanto basilare. Ecco, insomma, se queste lotte hanno avuto un limite, è stato sempre un po' quello di fermarsi alla richiesta di un diritto. Io non lo so, nella mia esperienza di militante nei collettivi femministi, LGBT e queer, antisessisti in primo, credo che insomma, che se riesco parteciperò appunto a Verona, perché per me, insomma, a me sembra una data più che importante, così sicuramente senza nulla togliere, purtroppo lo stesso giorno di Torino, e tra l'altro è anche lo stesso giorno della manifestazione contro l'aeroporto nella nostra amata Piana. È tutto weekend, insieme, mentre weekend, la domenica quindi, invece appunto a mettersi d'accordo si faceva il 30 marzo tira. Tira, e il 31 invece 31. Ci sarà una manifestazione in ricordo di Lorenzo Orsetti, appunto. Ancora non ci sono i dettagli, aggiorneremo sicuramente su Radio Wombat. Beh, Radio Wombat seguirà sicuramente tutto in settimana, quale sarà l'appuntamento, il percorso della manifestazione, comunque dove inizierà, come si svolgerà, però sappiamo che sarà domenica, sì. E quindi domenica ci teniamo la chiamata pronti. Appunto del 30 marzo a Verona per la città transfemminista, sì. Contro il congresso mondiale delle famiglie. Il congresso mondiale, perché io avevo letto un po' di partecipanti, effettivamente esatto. C'è un sacco di gente che viene da fuori. Beh, è una cosa molto Verona, appunto, però in realtà sembra fa una cosa anche un po' simile, no? Come le fa il Vaticano. Sì. Credo che sicuramente. Tra l'altro, penso di sì. Tra l'altro, è di pochissimi, mi sembra forse ieri, che il governo, il nostro amatissimo. Governo italiano ha tolto il patrocinio, perché fino a due giorni fa era uno degli sponsor quindi di questo raduno di personaggi squallidi, esatto. Era patrocinato dal governo italiano. Tra penso l'altro. Che il ministro della famiglia, insomma, sia uno dei principali sostenitori di questo scempio che c'è. Sì, noi continuiamo a parlare, comunque sono cose importanti. Io la vedo anche come un buon appuntamento, stanno già uscendo, tanto è uscita la chiamata, però insomma mi piacerebbe, ecco, spero e mi piacerebbe che le forze, appunto, chiamiamole appunto, no, transfemministe, transfemministe, antisessiste, LGBTQ e quant'altro, la comunità, insomma, sì, e chi le sostiene si mobilitasse, perché credo che purtroppo queste lotte spesso vengono ingoiate un po', no, dalle associazioni, sì, dall'associazionismo, sì. dal ecco un po' invece anzi vi assicuro che sono vive e vegete e come dire anche molto, insomma, in lotta, in bizzarrita e, no, e vanno molto oltre a quello che è un po', magari, no, la cultura del Gay Pride, no? Alla cultura, certo. Episodio del ritrovamento episodio, come può essere l'8 marzo e Gay Pride, sì, sì. No? Che radunano un po' queste realtà, però poi, a parte quei giorni, no, si sciacquano un po', si E devo sembrato anche a me che negli ultimi anni forse ci sia stato, non sì, so io, se è una realizzazione. Beh, sai, tu lo sai so, molto meglio di me. Poi io in realtà ci sono arrivata appunto in tarda età, avvicino a queste realtà, sono attraversato più magari ecco da così dal femminismo militante fino a che però mi ha fatto accorgere, poi mi ha fatto vedere come magari ci siano poi altri aspetti e quindi così. Comunque adesso noi cambiamo argomento perché abbiamo forse finalmente il collegamento da Roma. Il collegamento, sì. Sentiamo un po' il compagno, eccoci qua. Eccomi, ci sono. Aspetta un po'. Parla. Ciao, allora, caro. Mi sentite? Noi sì. Io mi sento sì. Bene, voi. Bene, bello, funziona che tutto. Che bocina c'ha al telefono. Per dire, però insomma qualcosa capisco. Sembri vero al telefono. Sembri una personcina normale. Ah, va bene. Sei contento. Sono i filtri che utilizzo. Quello, lo so. Nella nostra potente regia mobile. Ah, beh, guarda, oggi veramente i miracoli stanno facendo qui, perché veramente... Va bene, dici un po' come va lì, che ci dici? Cioè... Ma siamo a, penso, un terzo circa in realtà del corteo, perché è un corteo molto grande e è un po' difficile capire quanta gente ci sia. Penso che si parli del X decine di migliaia, però non saprei definire la X. Il coefficiente della X. Non è la fine, è l'inizio, esatto, cioè non so assolutamente dire. Ora siamo in piazza Vittorio Emanuele, quindi il giro è quello canonico, cioè sì. Con partenza da piazza della Repubblica e arrivo in piazza San Giovanni. E noi è un sacco che camminiamo cercando di fare su giù il corteo, ma non siamo riusciti né a vedere il fondo né a vedere l'inizio. Quindi io bell'e capito, sei stanco e non ne vedi la fine, l'inizio l'hai perso, ti sei già rotto. Sì, esatto. Io ti conosco e lo so. E ora vado al bar. E ora vai al bar, è così, tanto ti conoscerò. Va bene, e prima che vai al bar, ci puoi dire un po' così la componente, insomma la partecipazione, che componente ha? Ecco. Allora c'è è un po' tutta lì, vari gruppi, c'è un po' tutto il piccolo, il comitatismo italiano legato alle questioni ambientali, c'è tutto. Cioè, noi venendo, che ne so, sulla metropolitana c'erano due signori della Miata che arringavano arringavano praticamente la folla sulla metropolitana cercando di spiegare i problemi della geotermia sulla mia. È chiaro. E mi sembra che il tenore sia questo qua. Poi ci sono tutta la diciamo le varie parti di movimento dai Notav, che parlando prima sono partiti a mezzanotte da Torino. Ieri per l'altro, arrivare qua. Certo. Sì, esatto. Non perché ci voglia così tanto, è che sono persone precise. È che comunque detto, loro... Se alle 2 preferiamo, anziché alzarci alle 4, partire alle 9. Certo. Cioè arriva alle 9, ma partire a mezzanotte. Che è corretto. Certo. Loro sono corretti, che poi il corteo è partito alle 4 di pomeriggio, quindi ciaone fondamentalmente. E poi c'è tutto, diciamo, la varia. Sì, leggevamo. I posti occupati, c'è un po' tutto quello che è il grosso corteo del movimento che uno è abituato a vedere in valle, o però con questo, mettendo il focus più che sulla singola questione. Su appunto la somma di tutte queste questioni. È la somma che fa il totale. Quindi anche per fare un po' di solito sì. Lo diceva il nostro. A meno di algebre strane di solito sì. E quindi niente, un'altra roba che ci hanno detto adesso è che non possiamo andare in Piazza San Giovanni perché è già piena. Ah, e quindi ci siamo fermati qua in Piazza Vittorio Emanuele. Ok, così lei va al bar. Per dare un'altra dimensione, per dare un po' la dimensione di quanta gente c'è. Quindi diciamo chi è già il corteo è già finito, io sono ancora a qualche cammino, certo. Però dicono che non possiamo comunque finire tutti in quella piazza finché non defluisce un po' la gente, perché non ci si sta già così. Beh, c'è arrivata, quindi più del previsto probabilmente, avevano calcolato meno, è andata meglio del previsto. E che ne so, io non riesco a capirlo perché non riesco a capacitarmi, non vorrei dire cavolate, però sì, mi sembra che c'è tanta gente, non so se usando i media tradizionali si vedono le inquadrature dall'alto e magari si capisce di più, Vabbè. Noi da qui diciamo che anche stando fermi non vediamo mai smettere di camminare la gente. Quindi... Non avete avuto problemi a arrivare, ovviamente non hanno fermato nessun pullman? Cioè, no, ci hanno fermato tutti in realtà, penso. Okay. Però il fermo durava 5 minuti. Ok, un controllo. Diciamo, penso che tutti i pullman da Firenze siano fermati, ma non sono sicuro perché ti facevano scendere, guardavano gli zaini, facevano un giretto sopra e poi ripartivi. Pro forma, insomma, non... Sì, pro forma, sì, diciamo, c'era... diciamo, l'unica cosa molto fastidiosa è che ti riprendevano all'uscita del pullman. Cioè, diciamo, c'era questa forma di identificazione senza chiederti documenti, però ovviamente... Comunque... scendendo uno per uno... Una bella ripresina! Uno che ti faceva... Eh? Esatto, ti faceva il filmato a tutti certo. Quelli che scendevano. Tanto il suo ce l'hanno già, quindi non si preoccupi, sì. Ormai è andata. Ora, va bene. Davanti a noi c'è un nutrito gruppo di studenti. Studenti. Quindi degli sogni. Veramente, c'è proprio scritto nello striscione studenti contro le grandi opere. Vedi? Allora bene, insomma, quindi range d'età è vario. Sì, hanno va anche un hashtag. come moderno. Siamo ancora in tempo, sì. Magari va bene, io ti ringrazio e magari ci riaggiorniamo più tardi, così insomma se c'è qualche notizia in più. Se volete, cioè noi diciamo verso le 6:30-7 avremmo l'autobus per il ritorno. Ok. Perché se chiamate verso quell'ora sicuramente siamo in via di corteo finito, almeno per noi. Vabbè. Nel senso che sì. Chi apprende quel pullman necessariamente a quell'ora se ne va. Quella non è so la se fine. Il corteo sarà finito davvero, però insomma a quell'ora lì possiamo fare un bilancio della giornata se vi interessa. Oppure potete provare a chiamare qualcuno che è rimasto ancora in piazza. Bene, faremo dei tentativi, in caso se no ti richiameremo. Grazie mille per adesso, dai. Okay. Ciao. Buono. Siamo, se fosse ci sempre siamo. Così carino quando fuori dal telefono, invece... Sembra carinissimo. Al telefono sembra carino. È dolcissimo. Va bene, le persone si trasformano al telefono e no, scherzo ovviamente, questa è una bagarre antica tra me certamente, e l'amico. Bene, io forse direi che... potremmo, che dici, mandare una canzone. Mangiare, lapsus, attenzione. Ma perché c'ho fame pure, per questo, mi dispiace. Non hanno fatto nemmeno tra un po' mangerai, stai tranquillo. Buona stella. facciamo questa maniera, si manda un pezzettino. Una canzone e sentiamo soprattutto se Briccobaldo è ancora vivo. Esatto. Sì, no, dedicata a Briccobaldo gli si manda questa. Va. Se bisogna portargli le arance. Blocco, ho fatto quello che fanno tutti quando vedono un posto di blocco e non vogliono farsi da un posto di blocco. Il trucco, spero che no, spiego, è quello di guardarli negli occhi, ma con un'estrema serenità interiore, come chiedendo: ma cos'è successo? Infatti io m'hanno fermato e m'han detto: Rambo documento casino, vota la mente, documento tu me le harà. Song radico, sto voglio ricere, sto voglio canta. Ehi, hey, è 2 ore che chiedi sto documento. Fai bene a non fidarti se ti dico mi piace il sudocumento. I don't understand, non intendo. Rimaniamo freddi come quello di Nuendo. Dammelo tu sto documento, sì. Prima che parta un colpo accidentale prendo lì. Così se sopravvivo giuro che poi vengo lì. Dopo aver firmato il documento di Don King. Fatti draghi coi cani rasati tipo Krillin. State sempre a caricare come film in streaming. Mi volete registrare in una scheda CD. Uscirete solo diventando sound engineer. Oh shit, è arrivata la police. Dice tagliati i capelli come ha fatto Ludacris. Conto fino a 10, 20, 30, 41 bis. Temo l'occhio nero come il chitarrista The Kiss. And now, 99 Posse. Ramo documento, casino, botallamento, documento, tu me le harai. Tre giorni in fila all'ufficio comunale, giù in nonia che ho pulito si è scassato terminale. Era nuova che bellezza, ma voleva un cornicia, ma non passa giorna senza che la giacca c'ha. E che vera fuori a casa, Jonathan documenti. Sono guardie le capite, amo in un posamento. Prefetta in sana botta, si asciuga documenti. Si danchiava caffettina, sai come fai contento. Ma passa pazza che sta storia. Ma so scassato cazzo, rondo rondo documento, vieto sonne che sciapazze. Do rondo rondo rondo rondo rondo rondierà. Do rondo rondo rondo rondo rondo voglierà. Boom! Sento documento che ti piace dalla mia, do documento non voglierà. Me ne passa po' cazzo la dico, sto voglio ricere e voglio cantare. Sento documento che ti piace dalla mia, do documento non voglierà. Me ne passa po' cazzo la dico, sto voglio ricere e voglio cantare. Andano a fottere a galera, nemo come mettono, ma io moglie non è maniera. Momo chiavan, faccio cazzo su marone da serina. Senta pozzo, manco più, cago cazzo ogni mattina. Allora, a mia moglie, se cerco documento, che la muovo peno, cazzo io sono più contenta. A mio figlio, se cerco documento, ma guarda rinda gonnola e non capisce niente. Furi sulla, se cerco documento, ma cago sotto il sesso, cazzo immediatamente. Furi sulla, se cerco documento, chiamo terminale, ma controllo le precedenti. Cerco documento, cazzo piaccio dalla. Documento non voglierà, me ne passa po' cazzo la dico, sto voglio ricere e voglio cantare. Sento documento che ti piace dalla mia, documento non voglierà, me ne passa po' cazzo la dico, sto voglio ricere e voglio Rieccoci, rieccoci. Oggi niente, non... vi diciamo subito che Bricco Baldo ci ha richiamato. Sta bene, sembra, sta bene, tutto a posto. Sono notizie positive. Sì, buono. Tutto a posto. Riuscite a non farci arrestare e quindi perfetto. A quanto sembra tutto bene a entrambi i cortei che stiamo, sì, che stiamo seguendo per adesso. Insomma dai, non è che... Ma ne stavamo parlando proprio adesso, mentre stavamo per rientrare su... Alla fine della canzone ci abbiamo anche una compagna, abbiamo provato già a contattare, poi ricontatteremo e ve la lanciamo qua, perché questa compagna cos'è che va a partecipare? Io ho capito così, ma non vorrei dirvi una... No, hai capito bene, okay. Capito bene. Quello che mi hai detto prima andava benissimo. No, benissimo. Vedete che vada ai a Roma, ci sono oggi festeggiamenti per il Capodanno curdo. Ok. Ok. Per cui sarebbe interessante, ora magari sicuramente più tardi ci andrà, però magari ci potremmo far dire un po' da lei come funziona, come sono, cioè, cos'è che sarà, insomma, quali sono gli eventi in programma per la comunità curda a Roma oggi. È stata una settimana, direi, purtroppo intensa, sì, molto per loro intensa. Nonostante la conquista del, praticamente l'ultima roccaforte di, sì, ecco, di Daesh. Leggevo che in realtà, quindi, alla fin fine una notizia positiva è arrivata. E per ora, anche se chiaramente è una goccia nel mare, però insomma. Sì, una goccia nel mare in cui alla fine l'esercito. Cioè, nel senso, volevo dire una goccia nel mare, nel senso, è pagata con così tanta. Ah, con infinita. Certo, però sembra che appunto l'ultima roccaforte di Daesh, dell'ISIS, sia stata sconfitta, e anche le ultime bande, squadre che probabilmente sono quelle responsabili anche poi dell'uccisione di Lorenzo. Tenute poi anche appunto dal governo turco. Certo. Quindi aveva ragione Lorenzo a scrivere in fondo la sua lettera a Sergej Tin, no? Vittoria. Sì. In realtà esatto. Sì, c'è stata. Poi è chiaro che purtroppo, poi, come insomma, si sa, nel clima mondiale, ecco, come dire, vediamo appunto, si spera che questa vittoria sia... che abbia esiti un po' sul lungo percorso, invece di essere magari soltanto, appunto, soltanto no, però una... perché è complicatissima ovviamente la situazione. Bellissima, però sì, direi sì. Che appunto che è difficile poi che magari un momento positivo, un momento di lotta che si, così, un percorso che si conclude positivamente, riesca poi però nell'effettivo scacchiere della politica mondiale a avere peso, a imporsi. Certo. Ovviamente ha peso per chi lo fa e per chi lo vive, e c'è un telefono che squilla. C'è un nostro amico qualche problema col tasto del telefono, oppure sta succedendo delle belle a Prato, nello specifico al nostro amico. Comunque non ci siamo mai quando c'è da dire divertirsi, io lo dico sempre, miseria, ci si perde sempre le cose migliori. Ora quando tornano in famo, andiamo. Eccoci qua, sei già praticamente in diretta, Bricco Baldo, dici un po' che cosa fa. Aspetta. Oh, madonna, tutto subito tu vuoi, mamma mia. Oggi è scatenato. È scatenato, vai. Allora, eccoci qua, l'ultimo collegamento, a quanto ho capito. Sono in Piazza delle Carceri, siamo tornati qua dopo aver accompagnato i nostri amici fino alla stazione, praticamente, e la piazza delle Carceri si sta svuotando, stanno tutti tornando piano piano verso la stazione, e niente, questo è quanto. Qui mi scuso intanto per la plomb che non è stato proprio giornalistico di poco fa, ma la situazione lo richiedeva. E questo è tutto, direi. La piazza qua sembra tranquilla, anche troppo, direi. E poche le persone che sono andate realmente ad opporsi con la voce, anche fisicamente, a quello che doveva essere un presidio di Forza Nuova, ma che poi è stato un corteo sia all'andata sia al ritorno. E quindi qui niente, si può ancora far notare come le regole non vengono rispettate, ma unicamente da una parte. Questo è tutto, direi. Io vi lascio. Buono. E auguro a tutti e tutte una buona serata. Ma prima tutto bene, no? Perché ci avevi lasciato un attimino così. Sì, tutto bene. Senza tutto bene. Sono stato fermato dalla Digo, cioè, ha fatto una foto al mio documento. Ecco. Però niente, vabbè. Questo è tutto, niente di che. No. Devono lavorare anche loro, se no poverini, fai fa qualcosa. Sono stato fermato. E hanno solamente fatto una foto al documento. È stata una sosta, non una fermata, meno male. Sì, è stata solo una sosta. Tra l'altro ridevano anche loro perché quando, mentre ero al telefono a voi, stava sfilando davanti a me il corteo dei 137 furgoni, e nel mentre passavano io mi è venuto naturale abbassarmi i pantaloni e mostrargli il sedere. Quindi, ma te hanno fatta la foto anche a quello oppure solo ai documenti? Sì, hanno fatto foto, ovviamente. Ci facciamo i manifesti in quello, la Digos si è allarmata e ha pensato bene di venire a prendere il documento del culo esposto. Lo so, spero ne facciano buon uso. Ma effettivamente io, se tutti lì fuori il culo te, scapperei. E vabbè, ora quello, tutti i gusti sono gusti. Buttiamo anche un po' sui ridere. Comunque ragazzi, ti conoscono bene quelli della Digos, allora, capito? Ora lo conoscono anche meglio. Non meglio. Bene, grazie del veramente sei stato preziosissimo oggi. Grazie in a tutti, voi. In tutti i sensi, con tutte le parti del tuo corpo. Bene. Sì. Bene. Ciao, bene. Ciaone. Ciao. Ok, ora stava a mandare una canzoncina. I don't go to church on Sunday, don't get on my knees to pray, don't memorize the books of the Bible, got my own special way. I know Jesus loves me, maybe just a little bit more. I fall down on my knees every Sunday at the Red Lee's candy store. Well, I've got to be a chocolate Jesus, make me feel good inside. Got to be a chocolate Jesus, keep me satisfied. Well, I don't want no apples, apple. Don't want no almond joy. There ain't nothing better than sugar to vote for this boy. Red is the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. You see, only a chocolate Jesus will satisfy my soul. Dopo aver sentito Bricobaldo, che invece dalla piazza dove c'è la concentrazione CGL bla bla bla, sembrava tutto tranquillo, ci siamo collegati un po' sul magico mondo dell'internet e stiamo vedendo la diretta Facebook di del Corriere della Sera, che è dentro, diciamo, la manifestazione invece di Forza Nuova, dentro il nucleo di questi soggetti che adesso stiamo vedendo, questi 637 bellissime ragazze e ragazze che sì, molto forte, esatto. E una c'era aveva scritto sulla maglia tutto per la patria e sì. Ok, comunque, dicevamo, stiamo vedendo questa cosa qui. Abbiamo visto anche un po' di momenti di tensione tra la polizia e questo mini corteo di Forza Nuova, in cui ci sono partiti un paio di spintoni, c'è stato un blocco della polizia sui manifestanti. Sì. Abbiamo visto una certa dolcezza. Vabbè, sembra... sì, li trattano bene. Io direi, trattano bene. Fa sempre la vittima, però la stessa scena, invece di loro ci fossimo stati noi, abbiamo visto a volte Manganelli andare veramente a 100.000 all'ora di rotazione. Sì, e dai verso sbagliato spesso, esatto. Manganelli. Gli hanno dato un po' di spintoni per rimandarli indietro, ma perché loro ci hanno cercato di andare oltre il... Ora si vede proprio gente che si dà la mano con la diga, cioè si vede proprio i fasci si danno la mano con i digossini, che bello. Allora, praticamente però mi stanno dicendo anche che tutta questa cosa qua è successa in realtà un bel po' di tempo fa col casco e il manganello in mano, sembrava una tranquilla persona che passava per la strada. Invece no. E invece col cazzo, invece anche no, lui probabilmente con la minchia. Vabbè, comunque ci stanno dicendo che in realtà questo non sta succedendo esattamente in questo momento. Siamo passati circa una mezz'ora da quello che stiamo vedendo, quindi descriviamo quello che è successo una mezz'ora fa. Questo, se qualcuno vuole farsi un'idea di come è fatta tutta la Digos e la polizia di Firenze e dintorni, potete collegarvi alla pagina Facebook della Corriere della Sera. Ci sono anche... Sì, alcuni buffi. Vabbè, è abbastanza divertente. Sì. Sì, comunque sì, questo un po' abbiamo visto veramente... anche un po' di tensione con dei invece dei manifestanti diciamo della nostra parte che sono andati a dare due berci verso i fascisti che stanno comunque sfilando alla fine. Sì, perché alla fine appunto doveva essere un presidio, però per arrivare dalla stazione dove loro avevano il punto, fondamentalmente hanno fatto una sfilata, quindi con cori scortati dai loro protettori e quindi alla fine per essere 137 hanno fatto comunque un mini corteo, sono riusciti a farlo, e c'erano dei compagni che si sono avvicinati per dirgli semplicemente che fanno schifo, così per rivelare, sono stati ovviamente presi a spintonate, minacciati, mandati via. Vorrei capire appunto, ecco, ora l'abbiamo sentito in diretta, vorrei un attimo capire appunto com'è che appunto questi vengono, come si dice, sempre due pesi e due misure, questi vengono fatti appunto sfilare, arrivare, tornare, roba che se provi a farlo te con un corteo invece che non te sta, che ti è stato detto che è un presidio invece che un corteo, quantomeno vieni fermato, quantomeno vieni... Insomma, ecco, per non dire vieni portato in questura e via e via. Per cui, ora non è per fare, come si diceva, del facile vittimismo, però davvero basta vedere questi momenti in cui si vede proprio la differenza di comportamento. Cioè, davvero, anche se uno non ci crede, anche se uno non la pensa così, basta che lo veda. Ma ce la rivendichiamo, forse, anche questa differenza di un po' di atteggiamento da parte della polizia. Sì, loro sì. Sono conniventi, sono amici, sono probabilmente anche si parenti. Si vede anche il clima, spesso parenti. Anche perché si assomigliano, se guardi i poliziotti alla fine, sono tutte delle belle facce tranquille, ragazzi rilassati. Comunque nella vita in forma anche. Veramente non vorrei mai essere così. No, ecco. Cioè, comunque, no esatto, quindi noi invece siamo più belli. Quello sempre. Poveri ma belli, per esatto. Citare un bellissimo film. Bellissimo, proprio. Veramente, un vecchio film, grazie, per chi l'avesse visto. Detto questo, bene. Non abbiamo per ora aggiornamenti. Briccobaldo ci ha salutato per sempre, immagino. Sì, a sì, me per sì, no, nel senso sta bene, Brico Padre, non è che ci ha salutato per sempre. No, però a me questo gesto punk non me l'aspettavo, ci è piaciuto mostrare il suo lato, chissà, migliore, non vorrei dire migliore, ma insomma, un suo lato e mi è piaciuto molto, l'ho trovato veramente. Io sì, sono una fan di questi gesti completamente punk. Sì, assolutamente. Sì, sono una fan. No, questa è gioia, sono una fan, ma volete un pezzettino per l'occasione? Ma mandiamo sì, un pezzettino di gioia per il culo del nostro amico. Grazie. Dai, ci sentiamo dopo. Il mio mitra è il contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia ciò che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Ci porta sulle strade della gente che sa amare. Canto per te che mi vieni a sentire. Suona per te che non mi vuoi capire. Per te che non sai sognare. Suona per te che non mi vuoi capire. Nei tuoi occhi c'è la luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra è il contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia ciò che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Ciao. Abbiamo un grande drago al telefono. Attenzione. Attenzione. Da Plato. Sì. Dalla sua magione. Ciao. Ciao amico. Quindi Localiro oggi, ciao, Localiro. Ma è strano essere dalla parte, non in radio. È strano. Strano. Mi rendo conto. Essere a Plato, essere strano. E che volete sapere? Vi racconto? Ma sì, quanto era un brico? Noi abbiamo sentito una sola versione. Come? Abbiamo sentito solo una versione di Bricco, quindi ne vogliamo un'altra, perché non è che magari ci vediamo. Vabbè, vi faccio un breve racconto. Vai. Cioè, dai, dicela. In realtà la parte interessante arriva, vabbè. Ma ti favore. Siamo andati in Piazza delle Carceri, dove c'era il presidio, che poi fino a stamattina non si capiva bene se doveva essere una manifestazione o un presidio, in Piazza delle Carceri, molto partecipato, le bandiere c'erano, erano le bandiere poi alla fine del PG, qualche bandiera comunista, bandiera della pace, CGL, questa piazza qua era la piazza manifesto PD, che se n'è andata all'Aldifella in massa dopo mezz'ora dall'inizio dei discorsi e tutto il resto. Sempre coraggiosi. Come? Coraggiosoni. E non vi capisco molto bene. Vabbè, te parla. Vai. Dicevamo. Te parla. Ah sì, coraggiosi. E poi niente, siamo andati per dovere di informazione, siamo andati a vedere come andava di là, nell'altra piazza. E ci siamo beccati quello che poi effettivamente era, penso che l'abbia già detto Bricco, quello che è stato un corteo fondamentalmente, anche se non ci doveva essere, è stato un mini corteo da il sottopasso accanto alla stazione di Prato, Porta a Serraglio, fino alla piazza, cioè, sugli 800 metri fino alla piazza del Mercato Nuovo, dove poi ha parlato Fiore e tante merde qua. Tutta la situazione era completamente, tutto il quartiere era transennato, chiuso, non poteva passare nessuno. Sì. Intanto che ovviamente si è formata un bel capannello intorno alle transenne. Hanno fatto uscire i giornalisti, poi sono usciti loro sempre in corteo, cioè i 137, erano 137 persone. La fonte è Zoro di La 7. Sì. 137. Come? Sì, sì, questo numero... 137. Sì, sì, infatti, avevamo capito. Preciso. Sì. Mm. E sono usciti sempre in corteo, scortati da polizia. Sono partiti un po' di cori, merde, nelle fogne e cose del genere. C'è stato un momento di vicinanza tra chi protestava e il corteo, con i loro bellissimi veramente servizio d'ordine, con la fascetta al braccio dell'Italia a mo' di nazisti, sì, però con la fascetta italiana. E c'è stato qualche sofferuglio, qualche spintone da parte della polizia, e subito sono partite 100 telecamere intorno a riprendere queste cose, e sono stati scortati fondamentalmente in corteo, non sì, accompagnati a bandiere USA, ma in corteo fino alla stazione centrale, e penso a questo punto siano ripartiti per la qui ancora c'è qualcuno nella piazza, l'altra piazza, diciamo, sono un po' di gente ancora rimasta, ci sono ancora interventi, è stato ricordato Orso anche. Ok. E niente, questo bene è. Da Plato, grande Drago, concludo. Oh, grazie Drago. Oh, grande Drago. A presto. Ciao tesoro, a presto. Ciao a tutti. Rieccoci. Ecco, sì, ci eravamo persi, non ricordavo, è il clou della loro manifestazione, insomma, del loro raduno, chiamalo come vuoi, era il discorso di Fiore. Sì. Non me lo ricordavo, ecco. Discorso di Fiore che, non abbiamo il piacere, meno male, insomma, è andata bene, almeno quello non ce lo dobbiamo poppare. Sì, me lo sto poppando io da qua, attenzione. Quelli sono scelte. Il malvoluto non è mai troppo, io ti voglio bene. Deliberate scelte. Quello è un problema tuo. Cioè, è proprio così. Preso perversioni. Una bellissima intervista. Poi è un bell'uomo anche lui. È un bell'uomo. Stanno tutti ricordiamoci all'estato e latitante per diversi anni per banda armata e ricostruzione del partito fascista, ricordiamocelo. Comunque roba seria alla fine. Anche le sue guardie del corpo, vi assicuro, carine. Che sono carine. Sì, molto carine. Sì, devo dire che soddisfazioni. Ecco il vecchio fiore, ogni tanto così. Anche lui, no? Come diceva Benigni, ve lo ricordate? Come diceva Benigni di Bossi, no? Che lo tengono chiuso per 20 anni, poi lo libera, vai, ora c'hai 15 minuti di tutto il che cazzo ti pare, e poi là, e va no, è federalismo, e lo richiudono. E allora Benigni faceva sempre questo sketch, molto bello, quando ancora era in forma. Benigni non andava quando dal ancora, Papa, sì, quando ancora ci piaceva, quindi nel 94, fino al 94, poi questo poi è successo, è tutto successo Benigni di 94, tutti. E poi, vabbè, per me almeno, ma io sono una che perdona molto poco, e quindi ama molto e perdona poco. Giusto. Per cui devo dire che però questa cosa di che Benigni diceva di Bossi mi è sempre rimasta impressa, perché gli davano 15 minuti e gli diceva, cioè, poi lo rinchiudevano dopo la stanzina, e quindi lui Ivano, capito? Sì, ma poi io ho chiuso, ragazzi, non voglio più vederli, sono rotto il cazzo. Comunque accanimento terapeutico. No, certo, infatti punto. No, basta. Sì, dopo i cartelloni con Dio, Patria e Famiglia. Io non ce l'ho questo, io non ce l'ho questa perversione dei compagni che vanno a vedere, per io non ce l'ho questo fetish qui a me. No, nemmeno io particolarmente. Dio, noi che tu stai facendo, mi sembra un'occasione imperdibile quella di oggi, scusate. Posso fare una non ce l'ho mai avuta, perché poi mi viene la carogna e come so già, insomma, poi aumentano i guai legali e non è bello, cioè, ecco, sono arrivata a un'età in cui dico, vabbè, se si deve prendersi le denunce, si prende per fare qualcosa veramente, e non per andare a urlargli contro. Che però invece chi non ce l'ha è bene che ci vada, qualcuno bene che sempre, ci dà il cambio, qualcuno, se esatto. No, è che qualcuno riesca sempre a sfogare la propria, quindi bene, culi al vento, da oggi in poi sarà il sempre nostro, sempre a questo punto sempre, dai, il nostro hashtag bricco, esatto. Culi al vento. E io andrei anche con una canzoncina di stemperamento, sì, già che ci siamo, proviamo a fare quest'ultima telefonata a Roma. Si fa? Vabbè, allora voi intratteniamo un attimino, io provo a farla. Vai, tecchiamo. Noi intratteniamo come pazzi. Diciamo, come pazzi. Diciamo. Non mi ricordo più che si diceva prima, però... Direi, di Forza Nuova abbiamo detto tutto e si poteva dire. Mi fa ridere questa cosa che, no, tutto il balletto, allora... presidio no, presidio sì, allora no, da corteo diventa presidio, e poi in realtà hanno fatto corteo e presidio, hanno fatto tutto, e quindi... ma alla fine andava bene, dai, ma poi per essere 137 quindi... ottengono quello che vogliono, se ci pensi. Ma no, ma infatti la potenza qui sta nei piccoli numeri, evidentemente, sì. Perché comunque sì. Questi sì, vabbè. E anche lì di nuovo, qui ci mandano altri wombati, altre wombatesse, ci mandano dei bei input. Oddio, scusate. È partito uno di questi. Sì, input. Ci hanno mandato una bellissima clip. Se volete prendere in giro Fiore, mettete questa. Ed è una clip di Anna Magnani che canta gli stornelli in Mamma Roma. Bellissima scena. Grazie alla wombata che ce l'ha inviato. Io lo apprezzo particolarmente a questo, veramente questa finesse cinefila. E grazie. Vabbè, possiamo provare a fare quest'ultimo collegamento da, sì, Roma. Se ci può avere, sì, per fare un refiloghino di quello di come è andata. Ora sì, non so. Vi rimando anche chi volesse avere più notizie su Roma, sì, a Radio Onda Rossa, ovviamente. Senza ombra di dubbio. Che loro stanno sul pezzo. Dai e forte. Dai e forte, sono stati attivi tutto il giorno, sì, ma come, sì, se per esempio per Torino per la prossima settimana e per tutto quello che è successo Radio anche negli ultimi giorni, assolutamente. Radio Blackout. Se Wombat la butto lì, se qualcuno riuscirà, ecco, di quelli, okay, che non vanno e rimane, a fare un po' di... C'è chi va a Firenze, di. C'è chi va a Verona. E... Potrebbe stare che qualcuno sta in regia, chissà, e... Magari. Da Torino si riesce. E si riesce a fare Verona, un po' di collegamenti. Vediamo. Sarebbe buono nel fine settimana riuscire a connettere. Non vi promettiamo niente, però... Non promettiamo nulla, assolutamente. Non promettiamo mai nulla, perché l'Wombat difficilmente riesce a mantenere. Sì, però quando mantiene, insomma, ecco, sì, così... Tra l'altro, sì, il Wombat si prefigge cose. Un poi sacco non è di senso, cioè, vabbè, perché è un ragazzo libero. Il Wombat, sì, e poi è comunque giovane. Dobbiamo ricordarci, questo è giovane. Wombat. È quello. Ci sa che abbia un po' di vacillamenti. Cioè, questo Wombat, poi perde la strada da un dall'altro. È ancora insicuro sulle sue zampe, però insomma, sta a crescere bene. Bello. Nel frattempo invece da Roma non ci ha nessuno, perché abbiamo perso gli attimi. Noi perdiamo gli attimi, siamo, sì, ragazzi un po' così, sì, cioè lì è o niente. E allora si riprova di qua, vai. Nel frattempo noi continuiamo a chiamare come dei pazzi tutti quelli che sono alla manifestazione. Rischiamo la denuncia dei nostri stessi compagni per stalking. Più oltre che altro tutte le ci odiano, rischia l'odio dei compagni veramente per quei Vorrei ringraziare invece Wombatesse, che ci hanno, Wombati che ci hanno seguito oggi, sì, dandoci un po' di consigli e mandandoci un po' di cose, perché alla fine quei 3 o 4, insomma, ci hanno mandato anche qualche rimbrotto forse, o no? No, anzi, complimenti, cioè, complimenti per la trasmissione. Bene, allora siamo molto contenti. Siete anche divertenti, mi è arrivato un messaggio. Ottimo, grazie. Si preoccupavano. Grazie, perché non ci conoscete personalmente. Buttarlo in caciara sempre, ci riesce sempre. Sì. Va bene, io quindi niente per Roma. Io per Roma sto chiamando i 4 contatti, ce n'è un paio che ce l'hanno spento e 2 non rispondono. Quindi attaccano in faccia. Sto ripartendo dal primo. Forse bisognerebbe capirlo, no? Come quando continui a chiamare uno e non ti risponde, forse è l'ora di... Vodafone. Vodafone. Segreteria telefonica. Oh, ma la donnina della Vodafone non ha mai cambiato voce. Mai, è sempre 15 lei, da 80. Grande, ragazzi, immortale donnina Vodafone. E che dire, io vi vorrei appunto rimandare agli appuntamenti così del prossimo weekend, a chi può a mobilitarsi, chi vuole, chi può, perché saranno un giorno con tre manifestazioni importanti. No, veramente, tutto lo stesso giorno, come non ci riesce a fare. Per fortuna siamo così tanti che non sappiamo proprio come fare. Come fare a dove mandarli. Stiamo anche decidendo chi fa rimanere a casa, perché proprio tipo i non combattuti, ecco. Vanno in tribuna, infatti. Gli infortunati. Sì, fortunatamente ci abbiamo qualche infortunato. Sì, tutte... e si può... tutta la comunità, vasta comunità, così LGBT, queer, insomma, che andrà sicuramente a Verona. E come dicevamo, ecco, si spera di così di essere un po', e perché appunto non vorremmo che passasse in sordina, appunto, un po' purtroppo con la concomitanza di Torino. È normale che succeda, perché comunque quella è una piazza importantissima, e soprattutto in questi tempi e per questi argomenti. Però insomma, ecco, chi può vada anche a scoprivatelo e dividevatelo, vada un po' anche a Verona, in cui sarà appunto questa conferenza mondiale sulla famiglia, e ci sarà un parterre di disagio notevole, e si spera che la risposta, insomma, sia altrettanto agguerrita. E già pare, insomma, da quello che esce, già dei bellissimi manifesti, la rivoluzione sarà transfemminista o non sarà, molto bello. Io sono sempre felice quando vedo queste cose, perché ne vedo sempre poche, e anzi nel mondo dei compagni vedo purtroppo spesso invece, e qui altra polemica, vabbè, lasciamo perdere, vedo, la anzi, polemica è finita, la polemica non finisce mai, il nostro regista se n'è andato, sì ci ha abbandonato, il nostro destino, vedere veramente. Si è saltata la corrente, si è saltata la corrente. Siamo nemmeno più online, che è fuori, però che 3 ore vuole entrare, poverino. No, e vabbè, comunque. Ci proviamo? Ci si sente? Ha voglia. Cala corrente del computer. Bene, allora, ok. Ho stato il gatto. Quindi niente, insomma, ecco, questi sono gli appuntamenti che di sicuro verranno ricordati durante la settimana di sabato e domenica che vengono. Bene. Fine marzo. Sì, tutta la settimana il Wombat comunque approfondirà, ora noi sicuramente la Foca alle Polveri lo faremo, ma penso anche sicuramente il Radio Contato, eccetera eccetera eccetera, tutte le trasmissioni. Quindi un fine marzo caldo, esatto, ecco. Quindi ricordiamoci un po' i prossimi appuntamenti, ancora ce li andiamo a ripassare. Sabato ci sono queste 3 manifestazioni, allora, 3 una a Verona, una a Torino e una a Firenze, cioè nella Piana. No. Torino, Verona e Firenze, e quindi insomma ci divideremo, ci sparpaglieremo, e cercheremo di andare. E poi poi domenica invece ci sarà il corteo e il ricordo di Lorenzo Orsi. A Rifredi. Che parte da Rifredi. Ecco, sì, però ancora non si sa. Ancora non si sa benissimo. Ci sarà l'organizzazione 4 giorni prima, se non sbaglio. Martedì dovrebbe essere. Esatto. Alla casa del Popolo del Campino, tra l'altro. Sono assemblee aperte a tutto il quartiere. Sì. Certo. Anche molto particolare. Quella che c'è stata anche martedì, giusto? Sì, esatto. Passato. Io spenderei altre 2 paroline proprio giusto su questa cosa qua, appunto. Sulla situazione di Rifredina, così mi sento libero di parlare dal Rifredino Doc. Ecco. Campanilismi quartieri, Esmi Barrio, quartierismi, amico, vabbè, non metà da problema come mi pare, no? Sì. Nulla, Rifredi, ora così, sono mie considerazioni semplicemente, però si sta quartierizzando, cioè mi sembra che si stia diventando sempre più serio Rifredi, tanto che mi sto a maledì per essere venuto via, cioè avrei voglia tanto di... No, vabbè, sono vicino comunque, sì, sono rimpianti. No, è vero, sì, dai, è vero, attimo, è vero. Però si vedono ovunque. Intanto c'è diverse cose da notare di Rifredi. Intanto è un quartiere che sta affrontando dei solchi emotivi inaspettati. Ecco, insomma, com'è che ti vanno? Un solco emotivo? No, vero, perché insomma, Piazza Dalmazia e comunque tutti quanti gli abitanti di Rifredi, cioè, io me lo ricordo, eravamo poco distanti. Si era studiato alla biomedia quando successe sta cosa di Samba e Diop in Piazza Dalmazia. E non è per collegare tutte le cose, ma proprio per dire che quando succedono queste cose lo si vede poi nel tempo che lasciano dei segni, lasciano dei solchi nella coscienza delle persone, nella memoria delle persone. Si spera, insomma, lo si spera, infatti. Non ci dovrebbe volere questo. No, non ci dovrebbe volere questo, però qualche volta, anche quando c'è questo, non basta nemmeno questo a aprire dei solchi. E invece mi sembra che la popolazione di Rifredi sia recettiva a queste cose. Ci sono anche delle realtà che aiutano. Certo, ci sono delle realtà territorialmente radicate all'interno di Rifredi che insomma aiutano anche a aggregare. Mi viene da pensare, certo, agli spazi sociali che sono presenti nel quartiere, però mi viene da pensare anche proprio ai circoli, cioè proprio agli spazi sociali in senso allargato. Ci sono spazi occupati, spazi autogestiti che insomma conosciamo, le Emerson, storici. Conosciamo Corsica, conosciamo anche tutto. Qualcuno più giovane, qualcuno più anziano, qualcuno che ha vissuto delle trasformazioni, come può essere magari il Cecco Rivolta, così trasformazioni negli anni, però questi aiutano, insomma. Certo, e ci sono anche altre forme aggregative a Rifredi che stanno a venire fuori. Rifredi è tutta gialla e blu adesso, ci sono i Rifredi Rude Boys, c'è la tifoseria della squadra di pallone di Rifredi. Però ora non per collegare tutto quanto, per mettere tutti quanti sullo stesso carro per fare di tutti i Rifredi in un fascio, ok? Però è per dire semplicemente che la manifestazione che si va a fare per Orso, nel senso, è per Orso, per carità, non è che ci voglio tirare dentro Rifredi o dire che è una manifestazione per Rifredi, però è nato lì, è al suo quartiere. Sì, però Orso, come tutti i rifredini, è Rifredi, e nel senso cerchiamo di cavalcare questi solchi qua per costruire cose belle in questa parte della città. Ci vedo tanto potenziale, sarà che ci sono nato, ma insomma, evviva, andiamo a manifestare a Rifredi e cerchiamo di farlo sicuramente, sicuramente è un quartiere che c'ha, insomma, ancora forse un po', se si può parlare, perché poi purtroppo nella Firenze di oggi è difficile parlare di tessuto sociale, diciamo forse è rimasto un po', no, un quartiere a parte, così con i cambiamenti ovviamente, con però probabilmente rispetto ad altri magari proprio nel tessuto urbano, per come è collocato, per la sua natura, per le realtà anche proprio di lavoro, di fabbrica che c'erano negli anni, è rimasto un po'. Le dirò questo, lei forse non lo sa, ma a Rifredi c'erano gli studi cinematografici negli anni 20, quando Firenze era una città dove si produceva cinema, Io così, questo è il mio contributo che posso fare. No, certo, il mio contributo è che il suo pezzettino rifredino. C'erano gli studi cinematografici proprio dove si realizzavano lungometraggi, dove si realizzavano film. Sono stati a lungo dagli anni 20 fino a tutto il dopoguerra, fino agli anni 60, ed era proprio un centro di produzione, cioè c'erano proprio gli studi, perché c'era più posto, c'erano i capannoni e si giravano i film, quando Firenze era un centro di un centro per il cinema, cosa che purtroppo ahimè negli anni questa cosa è un po' finita, poi un po' ci riprovano ogni tanto. Però, insomma, c'è stata una spinta fiorentina negli scorsi anni, complici tante cose, e in tutti i sensi, no? C'è stata un po' di fiorentinità diffusa in una determinata fase, credo, no? Ora proprio detta così, tagliata grossa, diciamo. No, ma poi niente, ora per finire le chiacchiere un po' da bar, un po' di Localiro, diciamo. Sì, abbiamo avuto il Localiro di Prato, era sempre di rifreddo. No, vabbè, ma che e praticamente mi ho abbandonato ormai da un po'. Sì, sì, sì, no, tranquillo, tranquillo. No, niente, io sto a scoprire cose continuamente. Invito tutti quanti a interessarsi a rifreddi, anche per dire la scuola Guicciardini. Te parlavi mici di allaccio, poi finiamo. Si prova magari a richiamare l'ultima volta la compagna che ci eravamo previsti di sentire. E però insomma volevo concludere così. Per esempio la scuola Guicciardini, no? Io, anche dietro a tanti edifici di rifredi c'è in realtà una storia di resistenza, o comunque di associazione, di aggregazione delle persone. Per dire, la scuola Guicciardini, che è un posto che per tanti anni ha portato avanti proprio il discorso dei video, c'era un professore, c'è tuttora. Sì, io sono avuto tra l'altro alle medie e mi faceva supplenza. Sì, come si chiama? Il Cortese, se non sbaglio. Il nome stupendo. Mi pare il Cortese. Anche a scuola mia, io andavo alla Manzoni a Perese. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ce l'hanno avuto tutti. Certo, io me lo ricordo dalle medie, è uguale a quando ero alle medie. Io l'ho rincontrato per altre cose. Sì, sì, sì. L'ho rivisto. E lui proprio, rincontrato dopo del tempo, raccontava di quanto lui stesso e altri si fossero impegnati, altri soprattutto i genitori dei ragazzi che ci sarebbero poi andati nella scuola di Guicciardini, per occupare quel territorio lì affinché cominciassero i lavori della Guicciardini, che non mi ricordo per quale assurdo motivo erano bloccati. E quindi storie di quartiere, sì, storie di quartiere, ma storie belle, sì. Anche ce ne sono tante, anche legate a ambienti che non ci aspettiamo, ecco, insomma, non proprio ai nostri ambienti, ma ce ne sono tante storie belle per strade. E come dicevamo, appunto, il circolo, il campino in cui si tiene l'assemblea, appunto, che si è tenuta martedì, e qui ci sono insomma queste assemblee per decidere un po', per programmare appunto il corteo per Lorenzo. Anche questo negli ultimi anni si è visto attraversare da diverse realtà e così di lotta, insomma, di associazionismo, e mi sembra che diversi anche compagni ci facciano base, ci facciano attività, sì, ecco, sì, è sì, stato sì, un sì. po' così riportato in vita, perché no? Sì, sì, sì. Da segnalare, mi permetto, ma così proprio in via assolutamente eccezionale, c'è anche un locale in cui si sta bene, non si fa in generale pubblicità qua a Radio Wombat, vabbè, certo. Però lo sappiamo tutti, cosa c'è laggiù dalle parti di Via Voci, ci sono i culi e la Patrizia, ci vogliono tanto bene. E nel senso, cioè, tutta parte di questo grande mondo di rifredi, e poi un altro che piange adesso un suo eroe, ecco, insomma. Un eroe vero, ecco, insomma. Sì, e per concludere invece sempre la parentesi, c'è il cinema di Castello, che come sapete anche dalla programmazione che viene fatta dal cinema in polvere, ora da lunedì abbiamo cominciato a dare la programmazione anche del cinema di Castello, che è un cinema di quartiere che però fa sempre resistenza al mainstream, cerca sempre di proporre chicche e insomma è una programmazione alternativa, e quindi se vi interessa seguire appunto per parlare di un altro storico, ecco, così, certo, luogo sì, luogo di cultura comunque che sta a rifredi. Poi va ascoltate Passaggio a Nord-Ovest, va ascoltate tutte le cose belle che vengono dette di rifredi, perché rifredi è argomento ampiamente battuto all'interno della UOMA, però essendo io non partecipante ai programmi su rifredi, insomma, la golosità rifredina è arrivata. Ti sei giocato anche tutti gli shot a questo punto che avevi per parlare di rifredi, direi che forse sì, non parlerò mai più di rifredi, cioè, però oggi pomeriggio sono stato a montare la regia, mi sono sbattuto un sacco di tale, è il mio momento, sì, anche rompendo insomma tutte le vostre titubanze, ho parlato un po' di rifredi. Bene, ora vuoi provare anno, a fare quest'ultima telefonata? Se voglio provare a fare quest'ultima telefonata, così mi credo, mi heto e chiacchierate un pochino. Beh, voi magari non di rifredi. No, era di rifredi abbiamo dato, su rifredi abbiamo dato Viale Morgagni, ecco. No, prova a fare sta telefonata, perché magari poi stiamo a rompere un cazzo. Esatto, cioè, non so basta. Ormai da quant'è che siamo qui a chiacchierare. Che gente che ci odia. Sì, poi basta spingere. Io questa settimana ho saltato tutte le mie due trasmissioni. Perché? E speravo di averla sfangata, come dicevo, invece vi risponde, è toccato uguale. La segreteria telefonica non ho capito. La nostra amica che stavamo chiamando. Basta. Vuoi riprovare? Non si riprova, niente. No. Io, no, dicevo che appunto... Poggio e Buca Fappari, ero riuscita a forcare tutte e due le trasmissioni di questa settimana, anzi scusa, Basement e poi la fuga del gatto domani, perché la Mari non c'è, quindi faccio ah, faccio la fuga del gatto, fuga, ma è diventata punk. È punk, guarda, so che tu e gli altri non l'ascoltate, ma se l'ascoltaste scoprireste che è molto punk, perché è una trasmissione sulla musica latte fatta da due punk a bestia, per cui ci sta di farvi la fuga del gatto. Ci starebbe sempre di fare la trasmissione bis, la trasmissione specchio, la fuga del gatto, no? Fuga del gatto. Ma ti assicuro, guarda, che è molto punk, è una trasmissione in realtà molto punk. Mozart, davvero, è più punk di quanto pensate, e qui vi invito appunto a scoprirla. Però domani faccio forca perché la Mari non c'è. Beh, e bravo. Ho fatto forca non potevo per il Basement di questa settimana, e invece oggi sei riuscita comunque a deliziare tutti per le gioie. Molto bene, scusate. Direi che a questo punto possiamo salutarci. Sì. Un pezzettino di saluto, via, direi. Un pezzettino di saluto. Vabbè, Bona, io saluto. Bona. Ciao. Viva, grazie. Succede, successo e succederà. Beh.